Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, siamo buon qui. Buon inizio di settimana, carissimo Alessandro, a tutti gli ascoltatori. 30 buon maggio. Buon lunedì. Dai, su, ti sei temprato in questo fine settimana. Su. I grandi successi dello sport, come no, Nibali. Beh, Nibali ha fatto segnare gli italiani, e poi tu ti favi Real Madrid. No, io ti favo Atletico Madrid, in realtà. speravo nell'Atletico. Va bene, comunque Milano è stata placidamente invasa da tifosi che io ho ammirato. Non molto la decisione delle autorità cittadine, perché per esempio tenere i treni ogni 7 minuti sulla linea rossa, su cui c'erano 100.000 stranieri che gravavano in più, non è stata secondo me una grande... Penso che sabato per andare via di qui allo studio un'ora per prendere un treno. Ah sì? Eh sì, perché non si riusciva a salire, ma erano tutti per fortuna pacifici, ridenti, ridevano dell'Italia. No, poi raccontavano, noi siamo alla fermata della metropolitana dove c'è San Siro, qui, studio, quindi... Non proprio molto intelligente questa gestione, però loro erano placidissimi, devo dire, molto molto sereni, molto sereni. Rassicuranti, esatto. Posso dire, sai com'è, ti trovi con treni e treni, non riuscivi a scendere alla fermata della metropolitana, densità umana, e loro erano tutti tranquilli, perché lì se cadeva qualcuno e veniva calpestato, come ovvio, tant'è che hanno dovuto chiuderla anche la metropolitana per un'ora, proprio perché c'erano fenomeni di questo tipo. Comunque, per fortuna è andato tutto bene, e oggi è San Giovanna d'Arco, quindi la santa eponima della grandeur nazionalista francese, perché proprio oggi è l'anniversario di quando nel 1431 i borgognoni che avevano ceduti ai britannici, insomma, pac, la misero al rogo e finì San Giovanna d'Arco. Ma particolarità, il grande equilibrio della Chiesa romana cattolica è che c'è il santo del nazionalismo francese e dall'altra parte c'è il santo del nazionalismo spagnolo, cioè l'unico re elevato alla dignità di altare, San Ferdinando III, re di Leone e Castiglia nel 1200, il grande re che lancia la riconquista contro gli arabi maomettani, si riprende l'intera Castiglia, la Murcia, eccetera, eccetera, e diventa santo per questo, avendo passato a fil di spada qualche decina di migliaia di musulmani, perché di questo si tratta. Tra gli altri santi, San Dinfna, chi non conosce una Dinfna tra le sue amiche, San Basilio ed Ermelia, due sposi, e qui pare che fosse perché si sopportavano molto bene a vicenda. Questi due santi secondo me bisognerebbe rivalutarli in dei tempi di oggi. Tra le altre cose della giornata, oggi nel 1984 la Roma perdeva ai rigori con il Liverpool, la Coppa dei Campioni. Vuoi proprio infierire? No, non voglio infierire, perché poi 10 anni dopo, nello stesso giorno, si suicidò di Bartolomei, che era nella formazione, pensa un po'. E però è il Memorial Day USA, cioè gli Stati Uniti, in cui si ricordano tutti i caduti delle guerre, fine della giornata. E tra l'altro, cari ascoltatori, 800 24 00 24, oggi parleremo un bel po' di gioco d'azzardo legalizzato, perché ci sono varie cose che ci hanno incuriosito. Non equivocate, non siamo noi che partecipiamo al gioco, parliamo del tema nel nostro paese. Esatto. Che è un classico tema, Alessandro, in cui lo Stato da una parte vuole fare il virtuoso, esatto, e dall'altra alimenta il vizio perché ci incassa miliardi. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, cioè il fatto che ci si giochi molto, lo Stato legalizza, ci sono anche posti di lavoro, sono imprese, sono aziende. E però dall'altra parte, appunto, paga per la ludopatia, cioè costi, da una parte si guadagna con le tasse, dall'altra parte bisogna spendere soldi. E poi fa le varie ordinanze su non giocate qua, non giocate là, a tale distanza, in tale giorno, in tale ora. Io l'ho sempre trovata... per me è un po' un'ipocrisia di Stato, come le sigarette, che da una parte fa il virtuoso e dall'altra dice proibisce i pacchetti da 10 perché così ci incassa di più solo con quelli da 20, capisci? Cioè, sì, è una roba. Esatto. Intanto vogliamo salutare il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, buongiorno del Partito Democratico. Buongiorno sindaco. Buongiorno. C'è ipocrisia anche secondo lei, perché poi spieghiamo ai nostri ascoltatori perché l'abbiamo chiamata, ma un pizzico di ipocrisia la nota anche lei nello Stato? Che il gioco sia legale, cioè approvato dallo Stato, secondo me è preferibile al fatto che sia illegale, clandestino, nelle mani della criminalità. Detto questo, c'è una diffusione talmente capillare degli apparecchi di gioco che le conseguenze a questo punto sul piano sociale sono veramente pesanti. Per esempio, a Bergamo ci sono dei numeri, quanto è il fatturato? Ci sono dei numeri. In provincia di Bergamo nel 2015 si è giocato per 1 miliardo e 800 milioni di euro, che tradotto in valori pro capite sono 1637 euro a persona sulla provincia, uh-huh, e in città, dove si è giocato il 54% in più che in provincia, arriviamo a 2536 euro a persona, neonati compresi. Quindi immaginate quanto possono aver giocato le persone che hanno giocato molto. Sì. E quindi lei che ha fatto? È vero, ha fatto un'ordinanza nella quale, abbiamo letto sui giornali, in pratica ha limitato per alcune fasce della giornata la possibilità di giocare. Ma questo intanto vale per Bergamo, immagino, perché lei è sindaco. Questo vale per Bergamo. In Lombardia è in vigore dal 2013 una legge regionale che purtroppo si applica soltanto alle nuove installazioni, non è retroattiva, che vieta la distanza a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, che sono le chiese, le scuole, gli oratori, eccetera. A questa legge regionale noi oggi aggiungiamo un pezzo con una serie di indicazioni. La più significativa forse è il divieto di gioco in alcune fasce della giornata, che sì, poi diventerà esecutiva attraverso un'ordinanza sindacale dopo l'approvazione in consiglio comunale. Perché abbiamo scoperto che ci sono orari della giornata che sono quelli che sostanzialmente corrispondono all'orario dei pasti, la mattina dalle 7:30 alle 9:30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, in cui le persone trascurano le relazioni familiari, molte persone trascurano le relazioni familiari, qualcuno si dimentica i figli a scuola, qualcuno si riporta al bar mentre continua a giocare alla macchinetta, pensionati non tornano a casa, e quindi cerchiamo almeno in quegli orari di porre qualche limite. Per la prima volta questo limite va oltre le solite categorie, cioè macchinette, slot machine e VLT, che sono quelle connesse in rete, e abbraccia anche gratta e vinci, che se paiono più innocui, ma i numeri ci dicono che ci sono un sacco di persone che si mangiano fuori la pensione. Cioè, vietate anche quelle in quelle fasce. Anche quelli. Qui, Oscar, c'è sempre il problema, però, di come dire, di immagino un sindaco che deve cercare di porre un argine, perché ovviamente considerarle legali non può. Dice peraltro Gori che non vorrebbe. Io capisco Gori, batto le mani a Gori. Quello che non capisco è la posizione complessiva pubblica italiana, perché da anni e anni l'Italia, che aveva un giocato illegale molto vasto rispetto ai vecchi tempi in cui eserciva giochi troppo tradizionali, le schedine, no? Ecco, allora, per combattere l'illegalità ha via via inseguito a tassi fiscali bassissimi, perché per acchiappare la concorrenza tu nei nuovi giochi che erano illegali dovevi metterci poche tasse, quindi poche tasse, poi crescevano nel tempo man mano che andavano tutti al pubblico a giocare, ha alla fine acchiappato il più dei giochi, dalle videolotterie alle lotterie ai giochi vecchi e così via. Adesso il problema è che però, siccome ci becca quasi 10 miliardi di euro l'anno, qui stiamo parlando di un fenomeno che riguarda quasi 90 miliardi di euro l'anno in tutti i suoi componenti in Italia, da una parte lo ha fatto dicendo meglio legale che niente, e dall'altra mette in difficoltà i poteri territoriali locali, che si trovano poi a gestire i fenomeni sociali, no? Cioè di dipendenza, di concentrazione. Allora, da questo punto di vista, il signor Stato centrale dovrebbe darsi una regolata, secondo me, perché quello che non si può fare, io do solo voce per 30 secondi a tutti gli operatori del settore, che a ogni legge di stabilità si trovano massacrati con nuovi prelievi fiscali e con cambi di norme sui concessionari, perché anche lo Stato oramai deve dare un colpo al cerchio e uno alla botte. E allora rassegniamoci, voglio dire, o per legalizzare mettiamo limiti molto più precisi di adesso, però lo deve fare lo Stato, non deve farlo fare ai sindaci. Non so chiaro come la pensa Gori, non ho ragione. No, un po' così. Il problema è che se lo Stato non lo fa, i sindaci provano ad arrangiarsi. In questo caso l'abbiamo fatto per la prima volta facendo una ricerca molto approfondita sul campo, per cui noi supportiamo il regolamento comunale con una relazione di 60 pagine piena di numeri, e quindi diamo evidenza al fatto che c'è una relazione molto diretta tra diffusione sul territorio degli apparecchi di gioco o dei punti in cui si vendono i gratta e vinci e il numero dei giocatori e il numero di quelli che si rivolgono ai servizi antidipendenze dicendo datemi una mano. Sono in 10 anni sono decuplicati, triplicati negli ultimi due. Sì, esatto. No, perché però lei stesso dice non vorrebbe un gioco illegale, meglio che sia legale, però si trova da sindaco in qualche modo a dover prendere dei provvedimenti per limitare i danni, cioè è qui che sta tutta la contraddizione del secondo sistema. Me il problema vero è la macchinetta della porta accanto, cioè la facilità con cui chiunque, minorenni compresi, accedono al gioco. Noi abbiamo fatto una ricerca anche sugli studenti, sui ragazzi di meno di 18 anni, ne abbiamo intervistati 15.000. L'evidenza è che il 15% di quelli dei ragazzi delle superiori gioca tutte le settimane, il 73% conosce un posto almeno dove fanno giocare anche i minorenni, e capite che questo è il vero problema. Secondo me, quando il gioco era confinato in pochi luoghi più controllati, il casinò secondo me era molto meglio, sinceramente. Però Gori, guardi che io, la mia esperienza a Roma con i figli dei miei amici, nei ginesi del liceo, sto parlando di un bel po' di anni fa, quando c'era ancora le calcio scommesse, erano tutte illecite in tutti gli istituti superiori di Roma, in tutti c'era chi raccoglieva le quote, cioè il fenomeno del gioco tra minori a Roma, parlo di questo perché avevo cognizione diretta, era diffusissimo, per essere chiaro. Però lì era l'illegalità pura. Era l'illegalità pura, perché prima che, voglio dire, che il fenomeno delle scommesse anche sportive entrasse per larga parte nell'ambito tema, pubblico. Nel senso che la proibizione, cioè il proibizionismo, non ha mai portato molto bene in questo campo come in altri. Quindi, secondo me, giusto il gioco legale, va molto regolamentato e vanno protette le categorie più fragili, essenzialmente i giovani e le persone anziane. I costi sociali in termini proprio di relazioni familiari andate a pallino, di stipendi bruciati, di posti di lavoro persi, di coesione sociale che alla fine ne risente, sono molto pesanti e sono tutti a carico delle comunità locali. Per cui secondo me un'iniziativa che parte da un comune, ovviamente io spero che molti miei colleghi seguano e il regolamento è a disposizione di tutti, può essere anche una provocazione nei confronti dello Stato centrale, che a questo punto deve metterci la testa seriamente. Certo. Speriamo che non pensi solo all'entrata come ha fatto fino a questo momento. Sì. Allora, Gori, nel salutarla e nel ringraziarla, ci vuole dire una battuta finale su Renzi? Lei che lo conosce bene, lei che è un uomo anche che la televisione la padroneggia da tanto tempo. Le piace questa campagna referendaria partita così con largo anticipo? Io credo che debba arrivare dappertutto, coinvolgere tutti, rendersi comprensibile a tutti, per cui va bene partire con largo anticipo. Condivido veramente molto la strategia di creare tanti comitati per il sì, giro per l'Italia. Credo che l'accusa che oggi viene spesso mossa a Renzi, cioè di aver troppo personalizzato la campagna, in realtà secondo me non abbia un grande fondamento. Cioè Renzi non ha mai detto o con me o contro di me, come tendono a fargli dire, ad attribuirgli, ha semplicemente detto, e non è una cosa frequente nel nostro paese, visto che ho messo tutta la credibilità del mio governo sulle riforme, su quella elettorale, ma soprattutto su questa, che vi ricordate Napolitano sollecitò con grande vigore nel suo famoso discorso alle Camere nel 2013, se perdo, se i cittadini non sono d'accordo con la riforma che ho fatto, vado a casa. Questo non mi sembra una personalizzazione oltre misura, francamente. Va bene, noi intanto la ringraziamo, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, del Partito Democratico. Grazie ovviamente. Qui, caro Oscar, tra l'altro non abbandoneremo il tema, perché dopo la pubblicità parleremo ancora di questo tema, ma... con un effetto paradossale, perché sì. L'estensione alla Sardegna di quello che si può trattenere, come dire, vedetevela voi, è diventato un casino. Come vedi, lo Stato ha mille facce. Sì, racconteremo perché secondo il secolo XIX, poi ripreso dal Fatto Quotidiano, la Sardegna rischia di diventare l'isola dell'azzardo. C'è stato un accordo fatto col governo centrale. Prima però, Oscar, volevamo capire sulle amministrative, cioè è la settimana finale ormai della campagna elettorale, stiamo attenti che c'è la par condicio, non possiamo dire nulla, non diciamo nulla. Se diciamo A, dobbiamo dire B. No, ma c'è una maniera alternativa, parlare male di tutti. Si può parlare male di tutti. Stiamo scherzando, cari marescialli in ascolto. No, però questa cosa che ha detto Di Maio ieri, l'assessore a tempo, ha fatto molto discutere. Di Maio dalla Lucia Annunziata. Noi passeremo da 12 assessorati a 9 assessorati e introdurremo una novità. Assessorati a tempo, cioè... I politici che governano Roma devono essere degli assessori a tempo determinato. Io ti do un progetto, lo realizzi, una volta che l'hai realizzato basta, non campi di rendita in quella carica. Scadi, insomma. Allora, poi la precisazione che riguarda in particolare le partecipate. Posso dire? Adesso, sussultati in ascolto, mi sembra un'ottima idea. un'ottima perché idea. Lo sta, per chi conosce lo stato del Principato Romano, io ne parlo sempre, Ataclama, le più due più scassate d'Italia, sì, eccetera, le, solo chi ha il fegato di tirare fuori idee radicali di reingegnerizzazione, risanamento, eccetera eccetera, decide di farsi mettere alla prova e non cerca scuse nel tempo, cioè dicendo entro due anni deve essere fatto questo e questo, se non è fatto basta, vecchia. Io sono dell'idea che è una grande, quindi l'idea novità è questa, cioè non metterli a, metterli a tempo perché non possono vivacchiare dicendo non farò, possono farò, sopravvivere farò, farò, al fatto che le promesse con un caro, un chiaro cronoprogramma, se non realizzate si attribuiscono come sempre a colpa degli altri. Però tu sai che il cronoprogramma in Italia, dove poi ci sono le forze contrarie, capisci che è una novità insidiosa, perché, insidiosa, perché abitualmente insidiosa si dice anche sempre da riuscire a realizzare, la cioè trasmissione non mesi va bene, e io dico è colpa di Milan, e Milan dice è colpa di Genio, no, e la novità è Giannino non va bene, è colpa tua e te ne vai, oh. No, la novità sì, però quindi dire hai 5 mesi, cioè secondo me c'è il rischio anche che le forze contrarie che all'interno dell'ATA, come dici tu, esatto, sì, si incarognisco e quindi dicono vabbè tanto tutti teniamo duro 5 mesi contro, che poi se ne va via però fuori dalle balle, tutto più chiaro che è così, cioè io posso dire senza tifare, però nell'ambito delle idee nuove di questa campagna elettorale, pochissime, è un'idea nuova, pochissime, questo, è un'idea nuova a tempo sui risultati, siccome io vorrei che a cominciare dai dirigenti anche i politici avessero risultati dichiarati ex ante, misurabili ex post, e su quelli misurarli invece delle chiacchiere, mi sembra buona. Va bene, insomma, se volete anche su questo 800 24 00 24, tra un attimo torneremo oltre a questi temi, se volete intervenire sulla questione anche dell'azzardo, appunto in Sardegna, visto che la Sardegna riduco a minimi termini, aveva diritto ad avere dei soldi dallo Stato centrale, ma lo Stato centrale non ce li ha questi soldi, allora lo Stato centrale, il governo gli ha detto sapete che c'è, tenetevi i proventi del gioco d'azzardo sull'isola, e se siete bravi a svilupparlo e moltiplicarlo ne avrete, ne di, avrete più. Di più e, insomma è un accordo Nevada, che fa Las che Vegas fa? Rino Rino Oristano, no, ma soprattutto la domanda diventa: ma metteranno la lap dance e qualcos'altro? No, no, no, no, non è questa la domanda, no, credo, vabbè, peccato, non credo, per rilancio del turismo, peccato? No, che ne so, per rilancio del turismo, io sto parlando delle finanze della Sardegna, per chi mi hai preso? Si dirà quello che succede a Cagliari rimane a Cagliari, Te lo ricordi quello che succede a Las Vegas? A Las Vegas, esattamente, certo, certo. No, ma come sempre, vedi lo Stato, poi dice, le ludopatie, quello lo usa per sanare i debiti. Esatto, sono le contraddizioni. Allora, certo, che cos'è uno che dà azzardo per sanare i debiti? La pubblicità, la pubblicità. Mattino. E allora, caro Oscar, sono le 8 e 40 minuti, siamo qui. Cos'era? Cosa che volevi dire? Sono là, no, la pubblicità. Ma dai, uno che non paga, lo Stato che non paga i suoi impegni, dopodiché si trova arretrato nei debiti e che cosa fa? Sì. Li liquida non con il denaro, che non mi risulta, ecco, ci sottragga in percentuale bassa, bensì con cambiare in bianco sul gioco. Ecco, siccome merita un pochino, merita piace, quella qualifica che piace ogni tanto uso, cioè quello di essere un ladruncolo. Sì, vediamo, eccolo, l'hai detto. Dai, ladruncolo, ladruncolo, va bene. Vediamo di farci spiegare tutto e farci aiutare a capire da Raffaele Paci, che è l'assessore al bilancio della Regione Sardegna. Assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. E grazie di essere qui. Allora, la situazione è questa, se ho capito bene, alla Sardegna spettavano 900 milioni di euro di arretrati, più o meno. Era questa la cifra che dallo Stato centrale? 900 sì, milioni? Spieghiamo perché cosa, molto rapidamente. La Sardegna, come regione a statuto speciale, ha delle entrate proprie, cioè compartecipa alle tasse che pagano i cittadini. Ovviamente a fronte di questo assume delle funzioni in più, noi ci paghiamo la sanità, il trasporto pubblico locale ed altro. La nuova statuto che era stato siglato nel 2006 dall'allora Prodi e Soru prevedeva appunto le nuove entrate per la Sardegna. Dopodiché bisognava avere le cosiddette norme di attuazione, no? Che specificavano che non arrivavano, nel dettaglio, non arrivavano. Che non arrivavano, non ma diciamo arrivavano. C'erano queste. Perché lo Stato è appunto come sopra. Perché lo Stato è l'adruncolo, no, secondo lo Oscar Giannini. Se si tratta di incassare c'è, se si tratta di pagare no. Ecco. Vabbè, diciamo, tempo, diciamo vi dovevano dare 900 milioni. E allora che ha fatto? Visto che questi soldi non ve li davano, non ve avete fatto un accordo con, immagino, soddisfazione di ambo le parti, e cioè ha detto lo Stato centrale: sapete che c'è, in nome del così dell'autonomia, del federalismo, tenetevi una percentuale delle tasse del gioco d'azzardo legalizzato. No, non è assolutamente così, cerchiamo di ricostruire le cose per bene. Come vi dicevo, noi abbiamo diritto ad avere una compartecipazione su tutte le entrate. Sì. Dove ci sono tasse noi abbiamo una compartecipazione. Come tutti sappiamo, sui giochi di qualunque genere lo Stato incassa una parte di quanto i giocatori mettono e a norma dello statuto una parte di queste entrate spetta a noi, ma non è che ce le stia dando adesso, ci spettavano già dal 2010. Sì, ha detto tenetele, cioè ha detto tenetele. Assolutamente, no, non tenetele, questo. Finalmente abbiamo fatto le norme di attuazione e ci sta riconoscendo, perché il nostro diritto, sia quelle dei giochi ma anche altre cose, facciamo un esempio chiaro, l'IRES, che sappiamo tutti sono le tasse sulle imprese, a noi spettano anche quelle che vengono maturate sul territorio regionale, ma sinora non ci venivano mai date, sono altri 200 milioni che non ci venivano. Vabbè, questo è l'accordo, cioè la parte delle tasse, la parte delle tasse rimarrà. No, non è che vi sta dando un regalo. Non è che ce le sta pagando in termini di giochi d'azzardo. I giochi sono una delle parti delle tasse che riceve lo Stato e che ci deve riversare. Rimarranno invece direttamente nelle casse della Sardegna. Capisce che però che come è stata dipinta sui giornali c'è il rischio che la regione Sardegna una ricostruzione voglia molto, aumentare molto anche il gioco d'azzardo in modo da far rimanere più tasse. Beh, però se i sardi giocano di più, assessore, ci saranno più tasse, siccome sono percentuali alle giocate. Io spero che i sardi giochino molto molto meno e molto già meno. I dati dicono che fortunatamente si sta giocando meno, dopodiché come succede sull'IRPEF o come succede sull'IVA, una partecipazione di quelle tasse spetta alla regione Sardegna e serve per pagare la sanità, per pagare tutti i servizi. Però scusi, le posso fare una domanda? Perché io capisco che è sempre colpa nostra delle informazioni. Il riconoscimento dei 7 decimi del gettito totale è superiore a quello precedente, quindi lei assolutamente dice... No, è sempre stato i 7 decimi. Il motivo della controversia è che alcuni giochi venivano riconosciuti e altri no. Sono questioni tecniche. No, sono questioni tecniche che estendono la platea. Perché se lei dice che noi diciamo che non c'è un riconoscimento maggiore di entrate dal gioco legale, di azzardo. No, è sempre stato così. Guardi, la platea si è estesa o meno sul numero delle attività? Se aumentano i giochi, assessore, aumentano anche il gettito. No? Prima ci veniva riconosciuto il super enalotto, le tasse sul super enalotto e non quelle sul lotto. Ci venivano riconosciute quelle sul slot machine, ma non ci venivano riconosciute le lotterie istantanee. Le lotterie istantanee. Abbiamo detto niente, cioè, perdoni, scusi, adesso non è una polemica, ma è solo perché altrimenti chi ci ascolta pensa che noi stiamo contrabbandando il fatto una norma d'attuazione con l'estensione precedente al gioco legale, come se invece fosse una notizia che non c'è. La notizia c'è. Voi avrete una percentuale di incassi non solo uguale a quella che avreste dovuto avere e non avete avuto perché lo Stato non faceva norme attuative, ma maggiore, cioè lo Stato usa il gioco legale in Sardegna per dire: più giocate su questo, più aiutate a pagare quello che lo Stato non gli dà in cassa. Ecco, mi scusi, ma lo dico perché chi ci ascolta deve capire che non stiamo raccontando fuffa. Mi scusi, chiusa parentesi. E posso avere anche io la possibilità di ricostruire le cose o no? Allora, le sto dicendo che i giochi sono di natura tributaria e di natura erariale. Il nostro statuto prevede che ci debbano essere riconosciuti tutti. Lo Stato, il Ministero delle Finanze, non riconoscerà questo. Ci sono stati dei ricorsi in Corte Costituzionale. Sì. Nel 2012 la Corte Costituzionale ha detto che noi avevamo ragione e adesso con le norme di attuazione viene avete esteso il numero di giochi da cui vedere le proventi. Siccome è matematica, se si estende il numero dei giochi ci sarà maggiore introiti rispetto a prima. È matematica, insomma. Però non è che ci sta dando cose in più per qui non è sotto processo la regione Sardegna, assessore, no, chiariamo subito, semmai in discussione il fatto che lo Stato da una parte dica ma il gioco d'azzardo crea la ludopatia eccetera, dall'altra parte non riconoscendovi i soldi che vi deve, i 900 milioni, che cosa fa? Vabbè, estendiamo la platea, tenete i soldi lì e insomma, utilizza voi questo. Sapete bene che lo Stato è pieno di contraddizioni, paghiamo l'IVA sulle sigarette, paghiamo l'IVA sugli alcolici, pur sapendo che fanno male. Esattamente, però lo Stato da una parte fa il virtuoso e dall'altra incita al vizio. Assolutamente. Comunque, assessore, guardi, ci chiamano anche degli ascoltatori. Simona ci chiama da Biella. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto grazie della compagnia che ci fate al mattino. A lei, siete preziosi per spiegarci tante cose, che un po' di come va l'Italia. E poi volevo dirvi brevemente, io faccio l'assessore in un piccolissimo comune. Ah. E, la mia esperienza mi porta a dire che l'affermazione che ha fatto l'onorevole Fico è un po' fuori dal mondo. Io non so se la dimensione del comune conta, ma se noi ci mettessimo a lavorare a tempo, cioè già ai tempi della politica Di Maio. E veramente non faremo più niente. Già noi siamo già delle persone che lavorano a tempo, no? Perché cadiamo se la giunta cade e quando sono le elezioni ce ne andiamo. Sull'assessore fatto... a tempo. Sì, no, però prossima posso dire una cosa. Lì stiamo parlando di la capitale, cioè Roma, di quello si parlava, e delle partecipate di Roma, che sono più o meno un IRI, ma un IRI vero. È chiaro che per i piccoli comuni o per i comuni medi è un'altra cosa. Questo adesso non tocca a me dare la risposta per conto di Di Maio, però la proposta di Di Maio era per l'assessorato alle partecipate di Roma, che sono un mega ministero disastrato. Comunque, Simona da Biella, grazie. Insomma, Simona assessore, tra l'altro, in un piccolo comune. No, qui è di un grande posto d'Italia, perché amo il biellese, perdonate, sono piemontese, ne approfitto. Ah, vabbè, di tutto il biellese, quindi anche se sì, no, io amo tutto il biellese, tutto perché ho molti amici ed è una parte d'Italia strepitosa e anche del Piemonte un po' trascurata, esatto. Però vabbè. Comunque, assessore Paci, insomma, assessore al bilancio, ci può la cifra che io ho letto, per esempio, sul secolo XIX, cioè la possibilità di entrate annuali quantificate tra i 130 e i 150 milioni della Sardegna, è una cifra corretta? Quella comprende tutto il riconoscimento delle tasse, non solo dei giochi, che non ci venivano prima riconosciute, come le dicevo, sull'IRES, sui redditi da capitale, sulle assicurazioni. E quindi di questi circa 150 milioni, ripeto, comprensivi di tutte queste voci, i giochi rappresentano circa una quarantina di milioni. Una voce molto importante è quella dell'IRES, perché chiaramente se c'è uno stabilimento qui produttivo che diciamo inquina o crea necessità di altri servizi, le tasse vengono pagate nella sede dello stabilimento, che può essere da un'altra parte dell'Italia. Adesso viene riconosciuto che quelle tasse su quello stabilimento devono rimanere in quota parte in Sardegna. Quindi complessivamente abbiamo chiuso una vicenda che, ripeto, si trascinava da quasi un decennio. Sì, da quasi un decennio. E penso che vada merito anche all'attuale governo, però lei stesso, nazionale che regionale, di esserci. Però lei stesso, per concludere, dice: spera e si augura che i sardi giochino sempre meno. Questa è un po', assessore, prima avevamo il sindaco di Bergamo, Gori, no? Che pone delle limitazioni alle fasce orarie, con un'ordinanza per cui si possa giocare a Bergamo al gioco d'azzardo legalizzato. Cioè, capisce che qui sta la contraddizione. Da una parte lei da assessore dovrebbe dire in maniera brutale, laica, più giocano e più il gettito per la regione e quindi per le sue casse aumenta, e dall'altra parte spera che sia meno. Guardi, fa parte, ripeto, delle contraddizioni complessive. Noi non abbiamo competenza sui giochi, non vengono istituiti dalla regione, non abbiamo competenza sugli orari perché spettano ai comuni. Io posso dire solamente una cosa, che quando c'è un eccesso, un abuso del gioco, come di qualunque altra cosa, si parlava delle sigarette o dell'alcol, certo possono aumentare le tasse dirette su quelle voci, e poi dobbiamo spendere moltissime risorse per curare le ludopatie, per curare le cirrosi, per curare le malattie da fumo, e queste noi ce le paghiamo tutte come Regione Sardegna, capisce che alla fine è un gioco in perdita. Quindi io spero che ci sia sempre un uso attento e intelligente di tutte queste attività. Sì. Giocare un po' può essere divertente, può far bene, eccetera. Allo stesso tempo sono del tutto contrario al proibizionismo assoluto, perché la storia ci insegna che ha creato solo. No, è chiaro. Va allora, bene, per dare una cifra ai nostri ascoltatori di quanto sia fondata l'ipocrisia, fondato chi accusa di ipocrisia allo Stato. Allora, pensate, l'Unione Europea stima 22,5 miliardi nel 2015 il costo delle patologie da fumo. Solo in Italia lo Stato prende dal fumo 14 miliardi di euro e mezzo. Questo per dare l'idea che lo Stato ci guadagna e non è che affronta i costi, sarebbe più che giusto, perché quello lo deve fare, delle patologie a costo del pubblico, della sanità. No, noi da soli lo Stato sul fumo prende 14 miliardi e mezzo, quando le patologie da fumo, dice l'Unione Europea, e mi fa poco piacere, costano 22 miliardi e mezzo di costi. Quindi lo Stato ci guadagna lerciamente su tutta questa roba. Ladruncolo è diventato lerciamente. Ma certo, perché ladruncolo, sai, ci sono attività in cui ha racket. Ecco, questo è. Ci chiama Piero da Magenta, buongiorno. Buongiorno, telefono da Magenta, sono un vostro assiduo ascoltatore. Allora, io ho 73 anni e ho girato tutta Italia e in parte il mondo. Siccome il mondo, diciamo, si sta rinnovando, bisogna usare un metodo, a mio avviso, in linea con quello che accade nel mondo. Cioè, bisogna contingentare la giocata delle macchinette, invece che con la moneta che si può acquistare negli stessi punti di vendita dove sono allocate le macchinette, con un foglio di carta chimico, tipo la schedina, dove ci sta il logo della provincia, del punto vendite, e contingentare queste nuove monete, sì, che entrano nelle macchinette in base al numero degli abitanti che ci sta per provincia. Cioè si può giocare tot in base agli abitanti. Si ottengono due cose. Uno, è difficilissimo clonare le monete, che si possono riprodurre facilmente. Ne viene fuori, viene eliminata il discorso delle persone poco, diciamo, come dire, della malavita. Si fermi lì, però, perché sennò purtroppo, come sente la sigla, già sta incalza. Esatto, incalza. Staremo a vedere, caro Oscar. Staremo a vedere. Tu giochi. Io un euro allo Stato sui giochi, mi tagliassero zero, la mano. Zero. Ma non è che giudico chi mette un euro. Io parlo per me, anch'io. Hai ragione. Che mai mi ha pieno diritto di libertà, ma non lo faccio. Grande Oscar, saluti da Biella. Saluti. Filippo, ci arriva un messaggio. Anche ai sardi, però. Giocate piano, cari sardi. Così con i bradipi, piano. Esatto. Ciao, a domani. Ciao.